ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. Normalmente tengo la calma anche in momenti difficili. Normalmente non vado in panico. Il panico io non so che cos'è. Guardo dalla sommità, cerco di individuare il problema, ma il pozzo è fondo 8 metri e non capisco dove sia l'intoppo. Non mi resta che calarmi nel fondo e risolvere il problema. Storie di pozzi profondi e di pescatori disattenti, in una puntata che si intitola Niente panico. Signore e signori, non facciamoci prendere dal panico. Vi chiedo cortesemente di ascoltarmi. Vorrei darvi le ultime notizie sulla navicella. Siamo un po' fuori rotta, ma soltanto di un Ted. Signorina? Mi scusi, cosa significa Ted? Beh, in termini spaziali significa mezzo milione di miglia. I sobbalzi che sentite sono dovuti a degli asteroidi che colpiscono violentemente lo scafo della navicella. In questo momento, inoltre, siamo privi del sistema di navigazione, per cui non c'è possibile ritrovare la rotta. Mi scusi! È sicura di averci detto tutto, signorina? Oh, ecco, vorrei aggiungere che abbiamo finito il caffè. Niente panico, niente panico. Ok, panico. Ok, panico, questo è un pezzo dell'aereo più pazzo del mondo numero 2, anche se già nel primo c'era il momento del niente panico, ok panico, uno dei film più assurdi e divertenti degli anni 80. Abbiamo preso questo aereo per sorvolare la puntata di quest'oggi, che è una puntata che appunto si intitola Niente Panico, e attraverso questo sorvolare la puntata andremo in diversi luoghi. Andremo prima in un'assolata campagna torinese, in una cascina abbandonata, dove c'è un pozzo che permette di annaffiare con l'acqua di questo pozzo l'orto che il protagonista della storia tiene e coltiva da tempo. E a un certo punto ci sarà un intoppo e lui in quel pozzo ci dovrà guardare dentro e ci dovrà entrare. Tra pochissimo ci andremo. E poi andremo invece da un'altra parte, andremo nelle gelide acque dell'Islanda, perché un pescatore si troverà dopo una notte di tempesta da solo in quell'acqua. Lo aiuteranno a sopravvivere degli uccelli che volano sopra la sua testa e soprattutto la sua forza di volontà, oltre che il suo adipe, e sopravviverà anche a quello. Poi andremo in Algeria e continueremo a raccontare la storia di Antonio Cocco. Oggi sentiremo anche un vostro audio WhatsApp che racconta la linea d'ombra che state attraversando. È Linea d'ombra, il programma che racconta storie che hanno in mezzo un confine, e partiamo da quel confine. Andiamo in Piemonte, fa molto caldo e c'è un pozzo da cui prendere l'acqua. Benvenuti a Linea d'ombra. Era un giorno assolato del luglio 2016. Nel pomeriggio la temperatura superava i 30 gradi e il mio orto, situato in una cascina ereditata in mezzo alla campagna torinese, era assetato. Bagnavo l'orto con l'acqua di un vecchio pozzo, che è presente in tutte le cascine datate. È il classico pozzo con il muretto in mattoni circolare e la carrucola appesa ad una trave sopra l'apertura. La cascina è abbandonata, quindi niente corrente, nemmeno acqua potabile. L'unico mezzo per dissetare le piante è il pozzo, che tramite una pompa ad immersione e un generatore di corrente mi permette di innaffiare. All'improvviso però inizia ad uscire pochissima acqua dalla canna. Cosa succede? Sarà guastata oppure la canna è schiacciata? Dopo un controllo tutto sembra a posto e deduco che l'unico inconveniente possibile è che qualcosa possa essere finito nella piccola turbina giù in acqua e che rallenti il flusso. Tiro fuori la pompa a immersione che era calata nel pozzo con una normale gomma da giardino e una corda. Tiro e a un certo punto non viene più su. Per forza, con tutte le corde che calano nel pozzo per tenere al fresco l'acqua da bere, deve essersi incastrata o aggrovigliata. Guardo dalla sommità, cerco di individuare il problema, ma il pozzo è fondo circa 8 metri e non capisco bene dove sia l'intoppo. C'è un vecchio motore attaccato alla parete, quello in fondo. Credo sia proprio l'ostacolo che mi impedisce di sollevare la pompa. Che fare? Per carattere io cerco di risolvere sempre i problemi in prima battuta, da solo. Poi ovviamente a volte ci riesco, a volte no, però in tutto, quando faccio i viaggi vado io a fare le ambasciate, vado io a fare, non ho mai utilizzato agenzie, faccio sempre tutto da solo. Quella volta però a me sembrava abbastanza semplice, in realtà era semplice, se non avessimo quell'intoppo. Non mi resta che calarmi nel pozzo e risolvere il problema. Tutto sommato il diametro è abbastanza grande, circa 1,20 m, e penso di non avere problemi a calarmi. C'è una vecchia e lunga scala in legno con i pioli, in tutte le cascine ne esiste una per salire sul fienile. Beh, mi sembra robusta, quindi dopo una riflessione credo che legandola in cima al pozzo dovrei raggiungere l'obiettivo situato in fondo. Il problema è infilarla nell'imbocco, che è 1 metro più alto del livello del terreno, la scala pesa un botto. Però sono abbastanza robusto ed ecco che finalmente riesco a sollevarla in verticale e infilarla. Ora non resta che fissarla bene in cima e il gioco è fatto. Sono da solo, non ci sono vicini, ma che problema ci può essere? La scala è robusta, anche la corda. Fin da bambino io mi arrampico sugli alberi, quindi sarà un giochetto. Diamoci da fare. Devo bagnare l'orto per difendere il frutto del lavoro contadino che ho fatto finora. Scavalco il muretto, metto i piedi sul primo piolo. La scala oscilla, ma regge. Scendo 1, 2, 3, 4, 5 pioli. Poi, ben aggrappato alla scala, mi sento all'improvviso volare verso il basso, verso il fondo. In un attimo mi ritrovo sommerso dall'acqua. Ho toccato il fondo e ho spinto con le gambe. Mi ritrovo con la testa fuori. Posso respirare, tutto distinto, senza nemmeno pensare. Mi rendo conto ovviamente che sono caduto insieme alla scala. Ma come può essere successo? L'avevo legata bene. In effetti la corda non si è rotta e ci sono 2 pioli ancora appesi. Ecco cosa. Non ho pensato che ancorando la scala a 2 punti che sono più larghi della larghezza della scala, col mio peso si sarebbe allargata e i pioli si sarebbero sfilati. Quel tipo di scala infatti è solo su a pressione, sono pressate abilmente da chi le aveva costruite e non sono adatte ad essere appese. Comunque, galleggiando sul fondo, stranamente non sono nel panico. Controllo i danni subiti. Il polpastrello del mignolo della mano sinistra ha un taglio, sanguina abbondantemente, ma non fa male. Il resto, tutto ok. Sto benissimo, sono al fresco nell'acqua. È incredibile come in una situazione del genere si possano vedere i lati positivi, ma presto comincio a ragionare sul da farsi. Realizzo quanto mi è andata bene. Da un lato del pozzo intanto sporge il vecchio motore arrugginito e in vari punti ci sono dei grossi chiodi in ferro battuto, fatti nell'Ottocento, sono sporgenti e uncinati. Ho schivato tutto. Beh, qualche santo protettore. Devo averlo sicuramente. Dal fondo del pozzo comincio a valutare le varie opzioni. Chiamare non serve a nulla, tanto non ci sono vicini e il rumore dell'autostrada che passa coprirebbe le urla. Attendere che qualcuno a casa si accorga del ritardo e mi venga a cercare, forse, però sono le 4 del pomeriggio, spesso ritorno alle 9. Chissà quando verrebbero a cercarmi allarmati della mia assenza. Tra l'altro, non so per quanto posso resistere in questa situazione. Vedo che c'è una nicchia. È un 30 cm per 30, profonda 20 cm, è poco sopra il livello dell'acqua. Aiutandomi con il tubo che raggiungeva il vecchio motore arrugginito, riesco ad infilarci un piede. L'altro lo metto su uno dei pioli rimasti, quelli che sono rimasti sulla scala, e appoggiando la schiena al muro esco dall'acqua. Fa un bel fresco. Guardo attentamente come hanno costruito il pozzo, è un'opera d'arte, leggermente conico, con tutti i mattoni in piedi interrotti ad altezze regolari da 2 file di mattoni piatti. Chi l'ha costruito sapeva il fatto suo. Ma io devo trovare il modo di uscire. Guardo il pezzo emerso di scala e valuto che ci saranno circa 4 metri di acqua dal fondo duro e compatto. Mentre ci sono, districo le corde che si erano effettivamente attorcigliate al motore. In fondo l'obiettivo era quello lì, anche se avevo immaginato di raggiungerlo con modalità differenti. 6-7 metri sembrano pochi, ma dal fondo vedi l'uscita con la prospettiva dei pittori. E sono alto quasi 2 metri, ho le braccia lunghe, ma non arrivo nemmeno a metà strada. Il tubo del vecchio motore è troppo aderente al muro, non si lascia afferrare con forza. E le corde che reggono la pompa sono quelle che si utilizzano per imballare il fieno, troppo sottili per una presa salda. E anche se penso di essere in forma, non riuscirei a raggiungere la cima. Oltretutto ora ho ben chiaro a quale rischio sono andato incontro. Decido di fare riemergere la scala e provo a piantarla con un montante dentro alla nicchia. La scala è lunga, il pozzo stretto, l'angolazione non è un granché, ma sembra possa reggere. In equilibrio sui pioli della scala, infilata da un lato in modo precario, aiutandomi col tubo e le corde penzolanti, tento la scalata. Mancano in realtà un paio di metri a un tubo che arriva in cima. È un buon appiglio, se arrivo lì è fatta. Mi sarà agevole affrontare l'ultimo metro e mezzo per la libertà. Lentamente e molto cautamente, preoccupato dai potenziali danni di un'eventuale scivolata dalla scala, procedo 2, 3, 4, 5, forse 6 pioli. Raggiungo l'agognato appiglio. Ora la scala può anche scivolare e io non andrò con lei. Continuo la salita fino a scavalcare il bordo del pozzo e sono fuori. Non ero assolutamente agitato quando mi sono trovato dentro e tra virgolette ci stava bene perché era luglio, faceva un caldo terribile, quindi dentro si stava benissimo nel pozzo. E quando sono venuto fuori mi è venuto una cosa incontrollabile, quindi non so nemmeno descriverla, e ho pianto dirotto. Un'emozione che di gioia, quindi che ce l'ho fatta o l'ho scampata, che mi ha portato a questo pianto dirotto che è durato 20 secondi, 10 secondi, che però per me era anomala, una cosa che non ho mai provato. Non riesco a trattenerlo quel pianto dirotto con singhiozzi sonori. Vado avanti per un minuto, scopro una parte di me che non conoscevo. L'unico pianto da adulto l'ho fatto quando è nata la mia prima figlia, ma era un pianto di gioia. Questa è una cosa totalmente nuova, un po' mi spaventa. Tutti gli amici a cui ho raccontato la mia esperienza mi hanno definito un incosciente, un irresponsabile o altri aggettivi non proprio positivi, ma non mi è mai passato per la testa che la mia esistenza terrena potesse finire in quel buco. Forse perché sono temerario, ma vista la reazione all'uscita del pozzo, credo che abbiano ragione i miei amici. Quando sono rientrato a casa mi sono cambiato, ho avvisato brevemente la famiglia dell'accaduto e sono andato al pronto soccorso, dove mi hanno ricucito il mignolo. Ovviamente ai medici non ho raccontato quanto successo, mi vergognavo troppo della mia bravata, anche se involontaria. Dopo un mese nel pozzo ci sono dovuto rientrare per pulire i detriti che galleggiavano, ma questa volta ho portato con me mia moglie come assistente e ho utilizzato una lunga scala di alluminio. Ricordo giusto un momento di esitazione al primo piolo, ma poi la necessità è diventata virtù. All'epoca dei fatti avevo 55 anni. Oggi su YouTube mi ritrovo a volte a guardare filmati di quelli che esplorano i pozzi. Io vendo promesse di ogni sorta, qualcuna la mantengo, di tutte le altre invece non mi importa. Io smisto monetine da gettare in fondo a un pozzo, da grattare sulla patina dorata di un concorso a premi multimiliardari. Diffidate dei falsari e non incolpate me se ci gettate dei denari, non ho colpa. Se siete schiavi di una tombola stracolma di tesori che distribuisce a bambera e vi coccola l'idea di impadronirvi della vincita, vivere di rendita, capita ogni domenica. Se non hai mai vinto fino ad ora, sei stato sfortunato, amico, tenta ancora. Scommesse sul futuro, qualcuna vince molto, di tutte le altre invece non mi curo. Non ci sono meriti, non c'è una gerarchia, ma solo il cieco meccanismo di una lotteria. E non posso che adeguarmi, non posso lamentarmi se usate queste mie monete al posto delle armi. Se tutti i vostri sogni li puntate in questo gioco, vendo un'illusione in più e non è poco. Una monetina a te, una a te, un'altra monetina pure a te, così fanno tre. Una monetina per questa serata che non può finire, una per trovarti e l'altra per sparire. Una monetina a te, un'altra monetina pure a lei, così fanno sei. Una monetina per sapere che non ho sbagliato mondo, fiumi di monete, tutte in fondo al... Luca Micheli ha scelto questo pezzo di Daniele Silvestri che si intitola Il Pozzo dei Desideri, proprio perché di pozzi parliamo e soprattutto di un protagonista di una storia che in un pozzo si è svolta e fortunatamente si è anche conclusa. Pronto? Ciao Claudio, buongiorno. Ciao Matteo, ciao. Tutto bene? Tutto benone, tu soprattutto. Perfetto, il tuo mignolo. Ma il mio mignolo ormai è dimenticato. Perché erano 5 anni fa, giusto? Erano esattamente, forse 4 anni fa. 4 anni fa. 2016. 2016. Quindi, senti, vai ancora in cascina? Ce l'hai ancora l'orto? Assolutamente sì, certo. E continuo a fare quello che ho sempre fatto. Scemo io a chiederlo, quindi, figurati, dopo un'avventura come questa. È un bel passatempo. Tra l'altro ti ringrazio perché hai mandato ad Anita la foto di quel pozzo, quindi se per caso c'è qualcuno interessato a vederlo, Linee d'Ombra Radio 24 è il nostro profilo Facebook e lo trovate. È un pozzo bellissimo, tu lo descrivi molto bene, si vede che è un pozzo che avrà più di 100 anni, immagino, di quelle costruzioni contadine. Quella cascina lì è del 1850, quindi non c'era ancora l'Unità d'Italia e quindi è stato fatto veramente a regola d'arte. È più vecchio di questo paese. Senti, esatto. Claudio, in sostanza, per capire la dinamica, tu hai messo la scala legata con delle corde che erano più larghe della dimensione della scala, la scala si è aperta in due. Allora, esatto, attorno al pozzo, non so se si vede dalle foto che ho mandato, c'è una specie di gobba del piano che in pietra, io l'ho agganciata lì. Okay. Poi però questa gobba è più larga dei due montanti. Dei due montanti, quindi chiaramente essendo pressati. Esatto, con il mio peso questi si sono divaricati un attimo. Però la scala, la parte sotto della scala è resistita perché poi su quei pioli tu ci sei risalito, giusto? Assolutamente sì, si è rotto, se sono solo i due pioli finali, tutto il resto, l'acqua forse ha attutito, non si è rotto nulla del resto. Sotto, quindi... Senti, ma in famiglia quando l'hai raccontato che cosa ti hanno detto? Tu hai moglie e figli? Cosa vuoi che dica? Tra virgolette saluto le mie figlie Erika. Tra virgolette, certo, Clara, le salutiamo anche noi. Ciao. Beh, cosa vuoi che dicano? Dicono che quello che mi merito. Loro, diciamo, questo... tutti quanti hanno realizzato il rischio che hai corso, perché effettivamente ti è andata bene che sei caduto quasi col corpo quasi in verticale, giusto? Esattamente, io non l'ho spiegato nel mio racconto. L'attimo, tra virgolette, di terrore, di preoccupazione è stato proprio l'uscita quando sono salito sui pioli, perché a quel punto ero consapevole che c'era il motore e c'erano questi chiodi conficcati, eccetera. E sono stato veramente terrorizzato abbastanza nell'uscita, e poi forse il motivo per cui quando sono uscito mi è scaricata la tensione. Quindi, ma a questo proposito, questo pianto liberatorio che fai, tu dici nel racconto ho scoperto una parte di me che non conoscevo, nel senso che anche dalla caduta in un pozzo si può scoprire qualcosa, e tu esattamente che cosa hai scoperto? Sì. Ma ho scoperto che in realtà il cervello, secondo me, lavora quando sei in difficoltà in una maniera, e poi quando finisce questa difficoltà lavora in un'altra maniera. Secondo me è così, perché assolutamente sotto nell'acqua eccetera io non avevo la minima preoccupazione, ero concentrato sul finire il lavoro, tra virgolette, mentre lì, ma come uscire? E ho pensato a tutti i vari scenari, certo, no? Aspetto, chiamo, eccetera. Poi però in realtà mi sono confrontato anche con altri che hanno avuto queste situazioni abbastanza di tensione, che le gestiscono normalmente, poi piangono. Okay. E in realtà probabilmente il cervello reagisce. Non gente che è caduta in un posizione, non è che da quelle parti cadono tutti nei pozzi. No, vabbè, di casi di tensione ce ne sono. Chiaramente. Claudio, ti ringrazio ancora per la storia e la chiacchierata. Andate a vedere le foto sul nostro profilo Facebook. Ok, ringrazio e saluto a tutti. Ciao Claudio, ciao. Grazie. Ciao, ciao. Ciao. Thank you. qualcuno al 349-238-6666 su WhatsApp scrive: la mia più preferita dei Baustelle, Panico dei Baustelle. Sempre per chiudere questa prima parte di questa puntata che si intitola Niente Panico, ora lasciamo la linea alle borse in diretta e poi torniamo e passiamo dalle acque di un pozzo alle acque gelide dell'Islanda. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Linee d'Ombra. Sul nostro profilo Facebook Linee d'Ombra è partita la bagarre di commenti in cui sostanzialmente il tono è: gli è andata molto bene. Devo dire che guardando le foto che abbiamo pubblicato di quel pozzo è la prima cosa che ti viene da pensare. La puntata oggi si intitola Niente Panico, è una puntata che parla di storie di confine davvero tra il perdere la consapevolezza di quello che sta succedendo e dall'altra parte invece riuscire a mantenerla e ad uscirne. Appunto, la seconda storia di oggi è la storia di un pescatore islandese che si ritrova in una pessima situazione a causa di una svista. Di notte, nelle acque gelide dei mari del nord, riesce a non andare in panico anche grazie alla chiacchierata che si fa con dei fulmari. I fulmari sono degli uccelli che vivono in quelle zone. Noi la storia l'abbiamo letta in quel bacino di bellissime storie nordiche che è il libro dei vulcani d'Islanda di Lorenzo Piccione, che è stato pubblicato in Italia da Iperborea. State con noi. Vista su una mappa, l'isola di Heimai ha la forma panciuta del Brasile. Osservata dall'interno, gli somiglia molto meno. Qui è stato misurato il vento più forte d'Europa, più di 220 km all'ora. A godersi la brezza del capo del sud non ci sono tucani o pappagalli, ma milioni di fulmari urlanti, che sono senz'altro esseri chiassosi, ma anche insospettabilmente opportuni. È stato infatti parlando con loro per ore che nel marzo del 1984 Gulli Fridporsson, un pescatore di 22 anni e di 125 kg, riuscì a riportare a casa la pelle. Questa è la storia. Scaraventato in mare dal ribaltamento del peschereccio su cui stava lavorando, Gulli sapeva che per uscire vivo dal gelo dell'oceano doveva per prima cosa rimanere lucido. Allora, dopo che anche il suo capitano ebbe smesso di rispondere ai richiami, il giovane pescatore capì che era rimasto solo in mare aperto. Era notte, e rivolgere la parola a quegli uccelli che mulinavano sopra la sua testa sarebbe stato l'unico modo per mantenere la concentrazione alta e il battito cardiaco regolare. Giacché i fulmari, uccelli d'alto mare simili ai gabbiani, sono considerati da sempre amici dei marinai, chiese loro di indicargli la strada per casa. Quanto tempo è rimasto in mare? Non lo so, qualche ora, forse sei. Sei ore in mare? Sì, poi ho camminato per due ore. A quegli uccelli Gulli raccontò di sé, della motocicletta appena ordinata dall'Inghilterra e del timore di non riuscire a ripagarla. Era quello il pensiero che lo tormentava più di tutti. Non tanto morire, ma morire senza avere saldato i propri debiti. Gli uccelli lo ascoltarono, ma non risposero. Gulli cominciò a pensare se non fosse il caso di invocare piuttosto l'aiuto dei delfini. Aveva sentito dire che sono esseri molto intelligenti, al punto da domandarsi cosa ci sia nell'oceano sotto di loro e quale sia il senso delle stelle nel cielo. Se in certi casi i delfini possono essere molto più utili degli uccelli. Poi però vide apparire un'imbarcazione a 100 metri da sé e decise di spendere la voce che gli restava in gola per provare a farsi udire dagli uomini. Preso però atto dell'insuccesso di questo altro tentativo, cominciò a nuotare. Dopo aver galleggiato per 6 ore, si mise a seguire le luci di una cittadina che occupa lo spicchio nord-occidentale della sua isola. And our love, it will fade. Dopo 6 ore di nuoto in un mare gelido, Gulli raggiunse terra da uno dei lati meno accessibili della costa. L'approdo del naufrago era un ammasso di pietre sconnesse. Su quelle pietre poggiava del resto quella cittadina che giusto 10 anni prima si era guadagnata l'appellativo di Pompei del Nord. Erano le 4 del mattino, scalzo, addosso solo un paio di jeans, una camicia e un maglione. Seguì gli scogli finché le rocce non si aprirono in un sentiero finalmente accessibile. Si trovava nel mezzo di un campo di lava molto appuntito. Si riposò qualche minuto, poi camminò per 3 chilometri, nel nero della notte e del basalto. A un certo punto scorse una cisterna usata d'estate per abbeverare le pecore, ruppe la patina di ghiaccio e si dissetò un poco. Erano le 7 quando intravide finalmente le luci di una casa. All'uomo che gli aprì chiese di chiamare un'ambulanza. I medici del pronto soccorso non furono in grado di misurargli la temperatura corporea. Era esageratamente bassa per i termometri comuni. Ma gli dissero che nonostante tutto quello che aveva passato, i piedi insanguinati, il principio di disidratazione, nonostante tutto i suoi parametri vitali erano più che buoni. Un'equipe di scienziati decise nei mesi successivi di studiare le ragioni dell'incredibile impresa di quel pescatore. Nell'autunno dell'85 il capo del Dipartimento di Fisiologia dell'Università d'Islanda lo convinse a sottoporsi a una serie di esami a Londra presso il laboratorio del professor Keating, uno dei maggiori esperti mondiali di patologie del freddo. In una simulazione della salvifica nuotata di un anno prima, dentro a una vasca piena d'acqua a 5 gradi, il corpo di Gulli mantenne regolare la sua temperatura per 83 minuti. Nessuno prima di lui aveva resistito più di mezz'ora in quelle condizioni. I test mostrarono che Gulli non soffre di vasodilatazione dei muscoli profondi, cosa che normalmente accade agli esseri umani in condizioni di temperature molto basse, quando i vasi sanguigni si rilassano e causano una rapida dispersione del calore interno. I suoi invece rimangono contratti, protetti dal freddo, meglio e più a lungo. Il giorno dopo il naufragio lui si era salvato perché era riuscito a rimanere cosciente parlando ai fulmari che abitano le notti atlantiche, ma soprattutto perché il suo tessuto adiposo è più denso di quello di un adulto normale. In altre parole, la massa grassa di Gulli Fridtjofsson è paragonabile per consistenza al grasso di foca e se nasci in Islanda può essere una fortuna. Questa storia, come vi dicevo, l'abbiamo letta su Il libro dei vulcani d'Islanda di Leonardo Piccione, pubblicata da Iperborea, ma hanno tratto anche un film della storia di Gulli Fridtjofsson che si chiama The Deep. L'hanno mandato, è uscito nel 2019 e potete trovare qualche intervista su YouTube in cui lo vedete e sentite raccontare da lui la sua storia. Ora le strade in diretta e poi torniamo sempre qui a Linee d'Ombra. Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo. La mia linea di confine si lega a quello che faccio, io sono maestro elementare e sento di essere sul confine. Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita. Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente... Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà. Insomma, da una vecchia vita a una vita nuova. Ecco, la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio prendete padre, il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721. Questo è il numero WhatsApp di Linee d'Ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta Linee d'Ombra. La storia seriale che vi raccontiamo tutti i giorni è la storia di un giovane uomo che scappa da Venezia, la sua città, scappa dalla sua famiglia, siamo negli anni 50, e si ritrova arruolato nella legione straniera. È molto rocambolesco il modo in cui ci arriva, ma soprattutto parliamo di una storia che accade oltre 70 anni fa, cioè in mezzo di fatto tre quarti di secolo. E la cosa che oggi è difficile comprendere è stato il modo in cui lui sia stato quasi, come diciamo spesso, quasi coattamente, quasi forzatamente indotto ad arruolarsi. Al punto che il padre a cui scrive le lettere, che sono quelle che vi stiamo leggendo, vi stiamo raccontando e che sono state tenute dall'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano e sono diventate un libro, in queste lettere che lui scrive al padre, il padre gli chiede di scrivergli, di porre l'attenzione al modo in cui era stato indotto dalla gendarmerie, con delle minacce o altro, ad arruolarsi, no? È come avesse ad esempio dei problemi di salute, per avere in mano qualche cosa perché potesse essere congedato dalla legione o addirittura per farlo scappare dalla legione straniera. Il babbo di Antonio, un uomo che lavora in una banca importante, ha dei contatti, insomma mette in moto una macchina che permetta a questo giovanissimo ragazzo di 18 anni che si trova in Algeria, in una situazione in cui non vorrebbe ovviamente essere, ma soprattutto che ha davanti a sé l'Indocina, il luogo in cui la Francia sta lottando, il Vietnam, dove sta mandando a morire centinaia di persone. Ecco, il padre sta cercando di aiutarlo in tutti i modi. E oltre a questo, oltre a chiedergli di spiegare come è stato forzatamente arruolato, Antonio gli chiede conforto ad alcuni padri spirituali, alcuni sacerdoti. E tutto è nelle lettere, tutto nella puntata di quest'oggi. Caro papà, è la seconda lettera che ti scrivo del genere di come tu la vuoi. Guarda che però non sono quelle le mie condizioni. Puoi facilmente immaginare quanto abbia esagerato. Certo però che è stato proprio il tenente di Modan a farmi la domanda se avessi preferito il carcere in Italia o l'arruolamento nella legione. Io ho detto la legione perché già avevo l'intenzione di venirci, però tu ti puoi basare molto su questo. Nell'ultima lettera che ti ho scritto ho accluso tre mie foto. Spero ti arrivi perché era troppo pesante per andare via aerea, anche se ci ho messo 75 franchi di bolli invece di 45. M'ha scritto il sacerdote, Don Legrand, che hai casualmente conosciuto ed è stato gentilissimo. Gli ho risposto subito scrivendo una lettera come questa qui. Tony scrive che ha cominciato una corrispondenza con un sacerdote francese, Legrand. Sì. Era un missionario che aveva conosciuto anche vostro padre a Venezia. Sì, sì, sì, sì. Ma io so di questa storia, so che ne parlavo, ma non so di viaggio. Sentivo che ne parlavano a casa, ma non. So che ne parlava spesso a tavola, il tuo personaggio, ma non so di viaggio. Il padre francese Louis Legrand, giovane missionario, aveva conosciuto Luigi, il padre di Tony, a Venezia, dove si preparava a partire per la Palestina e poi per l'India e si era offerto di contattare Tony per sostenerlo nella situazione in cui si trovava. Quando stava per partire per la Palestina, lui era un missionario. Sai, ripeto, niente di più facile che qualche posto Luigi abbia conosciuto questo sacerdote, questo missionario. E molti andavano poi a andavano a mangiare a casa sua era un posto, avendo 10 figli, sai, c'era sempre qualcuno più che andava a mangiare là, compreso il parroco piuttosto che il... Quello che è curioso è che per volontà della famiglia tutti i soldi messi da parte da Antonio durante la ferma, quelli che non spendeva quando riusciva ad avere qualche ora o qualche giorno di permesso, erano 81.460 franchi alla fine, dopo una lunga procedura, perché non è stata semplice, però la famiglia, cioè i fratelli e la madre, perché il padre era morto, nel 1958 riuscirono a farli arrivare al seminario delle missioni straniere di Parigi, perché li trasferisse a padre Legrand, che al seminario di Bangalore in India. Papà, non so davvero come ringraziarti per quello che fai per me. Più ci penso e più mi sento vergognoso e indegno ad avere un babbo come te. Diceva giusto Giorgio nella sua lettera che tu sei un babbo più unico che raro, ma per accorgersene bisogna fare qualche grossa fesseria. Ti abbraccio e ti ringrazio nuovamente. Tony. Giovanni, cosa tu sapevi, o se l'hai ricostruito dopo, o se sapevi allora qualcosa dei piani di fuga che Tony ha cercato di mettere in atto per venire via, insomma? Io lo so che ogni tanto mio padre mi accennava a casa, che ci pensava su, che gli sarebbe piaciuto come noleggiare una barca o qualcosa, arrivare in Algeria e scappare con lui. E più volte accennato il discorso, gli dicevo: ma papà, non è possibile, come fai tu? Però è un discorso che spesso mio padre, ancora a tavola, ne parlava. E credo, sì, di essere scritto anche sulla lettera, che dopo mio padre gli ha anche scritto questa lettera in veneziano, per non farsi capire, di sta mezza intenzione di qualcosa, di poter arrivare là per aprirlo. Sempre una buona scusa per mettere gli Smiths. Questa è Panic, ringraziamo Luca Micheli che sceglie le musiche, ringraziamo Mauro Pescio, tutta la famiglia Cocco che partecipa al racconto della storia di Antonio. Ora, prima di chiudere, vi lasciamo con una piccola perla a cui teniamo molto, l'avete sentito pochi minuti fa. Stiamo raccogliendo, oltre alle storie scritte che ci mandate costantemente, anche dei vostri vocali WhatsApp al 331 57 55 721 per raccontarci la linea d'ombra in cui vi trovate adesso, in questo momento preciso. E può avere a che fare con tutto, con il lavoro, con un trasloco, con qualcosa che arriva di nuovo. E quando lo dico e faccio questi tre esempi, non mi aspetto mai, come nel caso di Marco, che tutte queste tre cose possano stare insieme. Ciao Matteo, ciao a tutta la redazione di Linee d'Ombra. Che dire, io vivo a Milano, questo 2020 è stato molto difficile, credo un po' per tutti. A fine mese mi scade il contratto di lavoro, non so se verrà rinnovato o meno per colpa della crisi appunto dovuta al Covid. La settimana prossima ho un trasloco da effettuare praticamente da solo, perché come facilmente intuibile dal mio accento non sono di Milano, ma ho tutti gli affetti dall'altra parte d'Italia, tranne la mia compagna che vive con me. Però da un mese abbiamo avuto una bellissima notizia, e cioè io e la mia compagna aspettiamo un bebè. Quindi chi lo sa, sarà questa la mia linea d'ombra? Non lo so, io spero di sì, perché le gioie supereranno sempre le difficoltà. Ciao! E noi ovviamente tutta la redazione, da Anita Panizza dall'altra parte del vetro a Paolo Corleoni che ha musicato e ha reso così bella e raccontabile la storia di Marco, ovviamente Mauro Pescio e Luca Micheli, facciamo i più grandi auguri a Marco, che non ha detto il suo nome, ma gliel'abbiamo cavato fuori grazie al nostro WhatsApp 331 57 55 721, il numero se avete voglia di mandarci un vocale come lui per raccontarci qual è la linea d'ombra, la linea di confine, il passaggio anche stretto magari nel quale vi trovate in questo momento. Ci piace dividere in due vie le storie che ci mandate. Una è la parte scritta, quella della linea d'ombra che avete attraversato, a lineadombra@radio24.it, il nostro indirizzo email, oppure se ci siete in questo momento 331 57 55 721 con un vocale. In bocca al lupo a Marco, la linea al GR, torniamo domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.